Pane, burro e rock and roll, dai che è venerdì, ancora qualche ora e ci si tuffa nel weekend. Lo facciamo splendere sto sole o no? Era un po' che non lo facevamo, ragazzi, lo si rifà insieme. Bisogna cantarla, se no non funziona. Voi chiusi in macchina, cantatevela a squarciagola. Fatelo splendere all'oste. Se ci scrive via sms a Francesco da Pisa, a Gian da Genova, in viaggio con il suo Panda 6,50 verso la Francia, vai. Let the sunshine. Let the sunshine ad Oscar, che sentenzia: ho trovato il locale dove passare l'inverno, si chiama Rock and Roll. Bravo Oscar. Fallo splendere Gibson 69. Immancabile Gianfranco da Napoli, che oggi lancia l'appello. Ah, Gianfranco, rilassati, stai tranquillo. Per piazzare sui tetti di Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, isole comprese, i ripetitori di Rock FM sui tetti di tutte le case. Campagna di espansione del segnale di copertura di Rock FM. Povero Gianfranco. Resisti! Workers, blues, rockers, siete in squadra con noi. Un abbraccio caloroso anche a Maurizio per la serie La Nicchia, prima o poi vincerà. Nel reparto missione militare Davide contro Golia ci scrive: cari Ariele e Frica, avete spazzato via Platinette dalle mie mattine. Era ora. Siete i numeri uno, grazie caro. La Nicchia vincerà, ricordatelo. Maurizio, sei in squadra con noi. da oggi il rock lo ascolti su una sola radio. Oh, retrogradi! Da oggi pane, burro e rock and roll si ascolta da due radio. Sintonizzati su radiorockfm.com e troverai tutto l'archivio di pane, burro e rock and roll. Contemporaneamente accendi la tua radio dalle 7 alle 9 del mattino. Così potrai ascoltare due Arieli e due Fricantoni al prezzo di uno. Non mi posso resistere. Non è. Ah, sì, sì, non mi posso trattenere. Sì, ma scusa, così poi non si capisce niente. Beh, ma è terribilmente rock. Va bene. Pane, burro e rock and roll. E la tua colazione non finisce mai. Celebration, premiata Forneria Marconi. E allora, Qui è FM ed è subito festa, potremmo sentenziare così. La miglior colazione in circolazione nell'etere, la colazione che vi dà assuefazione, dalle frequenze di Rock FM, pane, burro e rock and roll. Sicuramente quando sono così patriottico nei confronti della nostra trasmissione è perché conosco il potere curativo della musica che programmiamo, non perché penso che riusciamo a fare una bella trasmissione. So benissimo che siamo dei cani, d'altra parte ognuno ha i conduttori che si merita, diceva un mio caro amico. Saluti a Francesco da Pisa, che ieri era al concerto di Roy Paci e ha scoperto che spacca, non le palle intende. Ma lo sapevamo, Francesco, dai. Roy Paci, un salutone anche a lui, anche se non credo riesca a sentirci. Tra i vari problemi che ci segnalate, proprio ieri un radioascoltatore del gruppo d'ascolto Direttori, direttore d'azienda se non ricordo male, mi scriveva riguardo la nostra rubrica Ritardatario Ritardato, grazie alla quale quasi quotidianamente consigliamo una scusa nuova al giorno per chi arriva in ritardo. Lui ci chiedeva se fosse possibile affinare la rubrica anche per i direttori che devono ricevere queste scuse. Non ci siamo ancora sul pezzo, mio caro direttore, anche se siamo in squadra con te, ricordatelo. Quindi per ora lancio ancora la linea al classico appuntamento con Ritardatario Ritardato. Fondamentalmente, se c'è qualcuno di voi là fuori che in questo momento guarda l'orologio e dice perdincio e perdincio in bacco, sono in ritardo, tranquillo, senti bene qui. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, io le chiedo scusa, so di essere in un ritardo imperdonabile, ma ho una spiegazione. Come ogni buon italiano, come anche lei, mi permetto di segnalare, apprezzo il buon caffè. Certo, alzandosi la mattina il buon caffè è d'obbligo. E deve sapere, io vivo in una specie di cascinale, siamo una grande comunità, coi vicini mi hanno sistemato l'automobile ed io a mia volta mi rendo utile per loro. Ecco, stamattina mi sono alzato alle 4 per fare il caffè. Come dice, sì, no, io ho una caffettiera piuttosto vecchia che ci mette un sacco a fare il caffè. Ecco, ma di solito, come stamattina, uso un pentolone, me lo lasci dire, un mastello, come si può dire, una grande mastella, un enorme pentolone di 2 metri per diametro, e faccio il caffè per tutto il vicinato. Mi sono alzata alle 4, però questa mattina, insomma, la miscela era particolarmente ostile, dura, era difficile con la pagaia rimestare tutto il caffè. Guardi, direttore, che far bollire 24 chili di caffè tostato, macinato, fresco, insomma ce ne vuole. Le ripeto, io mi sono alzata alle 4, ho puntato la sveglia alle 3:15. Alle 4 ero in piedi, pimpante, sveglio per l'odore del caffè che mi entrava dalle narici. Lei non può sapere che energia. Ecco, però è andato un po' per le lunghe. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Scusi, non è che ha una monetina per la macchinetta del caffè? Perché poi alla fine non l'ho ancora preso stamattina. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good at different life. Something made us laugh, something made us cry. One that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always have it forever and a day. Passiamo ora alle cartoline della serie Bonazze, ovvero immagini osè dal mondo. Abbiamo catalogato, ve lo abbiamo spiegato tante volte, tutte le numerosissime cartoline arrivate in svariate casistiche. La casistica di oggi effettivamente potrebbe essere il reparto Bonazze. Bonazze, ricordando che comunque tutte le cartoline che voi avete inviato sono importantissime per la sopravvivenza della cartolina postale medesima. Iniziamo la tripletta salutando Sara, Antonio e la piccola Elena, che ci inviano una cartolina dalla Riviera Adriatica che si intitola "Oggi c'è bonaccia". Maestro, bonaccia. Descriva immediatamente la cartolina. Bonaccia, sì, la bonaccia di cui si parla, sì, con una doppia metafora. Naturalmente si riferisce, sì, a, sì, cavalcioni. A cavalcioni. A lei si riferisce a questa bonaccia. Io, sì, intendevo, sì, sì, partire dal mare calmo, dalla bonaccia del mare calmo in dietro sottofondo. Dietro c'è il mare caldo, ma invece la nostra bonaccia fondo, è, la nostra bonaccia è invece una avvenente signorina, sì, a cavalcioni su di un tronco. Di legno. Basta, la metafora ci basta. Basta, è chiarissimo. E Sara, Antonio e la piccola Elena ci scrivono: ecco un esempio dell'umorismo davvero rocker, ma quel che è più importante. Tanti cari saluti e buone cose, grazie Antonio, piccola Elena e Sara, ma soprattutto alla Bonaccia. E poi qua in apertura di Geriele, sì, le faccio notare: salviamo la cartolina. Lo slogan: salviamo la cartolina. Sì. Passiamo alla seconda, reparto Bonacce, ce la scrive Betty in compagnia di Pietro. A favore della campagna Pro Cartoline abbiamo trovato le ciambelle per la vostra colazione rock. Infatti la cartolina intravede una scritta: le nostre ciambelle riescono sempre col buco. Descriva l'immagine. Due bellissime gemelle che emergono completamente nude se non dalle spume, con maschere e boccaglio. Esatto, che sembrano un filo superfluo in questo caso, sì, ma utili. Con due, escono dal mare con due sollevando, sì, e brandendo in aria, sì, due bellissime ciambelle gemelle. Esatto, che sarebbero i salvagenti. I salvagenti gemelli. Viva, ecco, le ciambelle e anche i buchi. Anche questa è una cartolina molto metaforica. Chiudiamo la tripletta cartoline sexy con questa che arriva da Alessandro, da Saint-Tropez addirittura. Accidenti, che esotico! La gente, tra l'altro, ce la spedisce senza francobollo, anche questa è stato temerario, non se ne sono accorti alle poste. Scrive Statua con la patente rock: un caro saluto, viva le cartoline, dal bassista dei Luciferme. Allora salutiamo sia lui che tutti i Luciferme, la prego di descrivere questa inquietante immagine. Beh, certo, un complimento al bassista di Luciferme e a tutta la band. È presa da dietro Per questa scelta, sì. La signora è vista da tergo, così, sì, per così dire, è su uno scoglio, così statuaria, posso dire, una statua. Che un filo di dubbio non le viene a lei? Sì, in qualche modo, non si capisce è lei bene. O no? Sarà una lei o un lui, ma decisamente una lei, alla fine uno sceglie. Va, ecco, bene. Sullo sfondo cielo e mare azzurrissimi, lei sullo scoglio, così in piedi, così dritta, con un cappello texano, e questo, ecco, confonde, come diceva il DJ Ariere, confonde un po' le carte. Grazie le anche mischia Alessandro, un po'. Via Locatelli 1, 20-124 Milano, salviamo la cartolina. Yeah! Basta con lo strapotere dell'SMS, basta con lo strapotere della comunicazione via telematica, basta con i messaggi dal computer. Basta Friccantoni! Ci sono rimasto male. Ciao. Ciao. Oh, che spesa hai fatto. E tu sei già qui? Prendo solo una merendina e vado. Questi ragazzi viverebbero solo di merendine. E che male c'è? Basta scegliere quelle giuste. Come questa. Pane, burro e rock and roll. Ha tutta la semplicità di un pane fatto con grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta. E poi è anche conveniente. Pane, burro e rock and roll. Nutre bene con la sua semplicità.